24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Governi e Commissione europea contro le agenzie di rating per Barroso pregiudicano il mercato e Bruxelles annuncia nuove regole dopo l'estate. E il taglio del rating sul Portogallo da parte di Moody's affossa le piazze finanziarie dei paesi europei, Milano tra le peggiori. In primo piano in questa edizione anche lo sport con il Tour de France e la cultura con il Festival internazionale della radiotelevisione Pri Italia. Bentrovati da Roberta Pellegatta, un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In apertura l'attacco della Commissione europea alle agenzie di rating dopo il declassamento di Moody's sul Portogallo. The decision of one rating agency to downgrade the Portuguese sovereign debt. Mi dispiace molto della decisione dell'agenzia di tagliare il rating del Portogallo e mi dispiace anche perché il Portogallo ha appena migliorato il programma di aggiustamento dei conti in accordo con Unione Europea, BCE e Fondo Monetario. È il durissimo affondo del presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, dopo il downgrade martedì di Moody's sul Portogallo. Il giorno prima, lunedì, era arrivata la minaccia di Standard & Poor's di dichiarare la Grecia in una situazione di quasi fallimento. Ce n'è abbastanza perché governo e commissione prendano nette distanze dai giudizi delle agenzie di rating sui paesi sotto salvataggio internazionale. Mi sembra strano, ha aggiunto Barroso, che nessuna delle agenzie sia europea. Ciò significa che potrebbero esserci pregiudizi sui mercati quando si arriva alla valutazione di specifiche questioni che riguardano, aggiunge, il vecchio continente. Fortemente critico anche il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, secondo il quale bisogna rompere l'oligopolio delle agenzie di rating e porre un limite alla loro influenza. E allora Bruxelles stringe i tempi con la proposta di nuove regole per le agenzie. Dovrebbero arrivare già dopo l'estate. Obiettivo: chiudere la partita in 7-8 mesi. Il taglio del rating sul Portogallo da parte di Moody's influenza negativamente le piazze finanziarie europee, soprattutto quella di Milano. Ciclone Portogallo sulle borse europee. La decisione dell'agenzia di rating Moody's di tagliare drasticamente il giudizio sul debito di Lisbona ha penalizzato in primo luogo i listini dei paesi periferici dell'eurozona. Piazza Affari è stata tra le peggiori, perdendo il 2,35% sul FTSE All Share e il 2,44% sul FTSE MIB. Le vendite hanno colpito soprattutto le banche. Hanno pagato dazi Unicredit meno 7%, Ubibanca meno 6,6% e BPM meno 6,3%. Maglia nera del paniere principale è stata però Fondiaria SAI, scivolata dell'8,9%. Ha guadagnato terreno in controtendenza invece Lottomatica, più 2,7%. I titoli del gruppo hanno beneficiato delle misure previste dalla manovra economica per l'incremento degli introiti del settore giochi, oltre che del giudizio positivo degli analisti di Mediobanca. Paolo Paronetto da Radio Corp per Radio 24. Il Sole 24 Ore. Ed ora la prima conferenza stampa del neo direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde. Sentiamola. Well, without anticipating on what will be discussed for the board scheduled on Friday. Senza dare anticipazioni sul board in agenda per venerdì sulla questione greca, posso dire che mi auguro che gli esponenti del governo greco, così come l'opposizione, possano ispirarsi alle scelte coraggiose adottate in Irlanda, ma anche in Portogallo. Prenderemo in considerazione il pagamento della quinta tranche del pacchetto di aiuti alla Grecia. Arriva un momento in cui gli interessi dei singoli e le rivalità politiche devono essere messe da parte per far posto all'interesse nazionale del paese. E questo è stato chiaramente dimostrato sia nel caso dell'Irlanda che del Portogallo. Il Fondo Monetario Internazionale rimarrà indipendente nel suo giudizio sulla situazione e condurrà le proprie analisi con la stessa indipendenza. Andiamo a Strasburgo, dove è stata appena approvata una nuova normativa europea che garantirà maggiore trasparenza in tema di informazioni sugli alimenti. Migliori informazioni per scelte più consapevoli da parte dei consumatori. Queste le parole della relatrice, l'eurodeputata popolare Sommer, a seguito dell'approvazione con 606 voti a favore delle nuove norme sull'etichettatura dei cibi da parte del Parlamento europeo. Punti principali delle nuove regole, fra gli altri, l'indicazione chiara dei contenuti nutrizionali sulle confezioni e la messa in evidenza di eventuali ingredienti allergenici o sostitutivi di quelli originali. Ma è in termini di indicazione del paese d'origine che le nuove nuove norme incidono di più. Viene infatti esteso l'obbligo di inserirla, già in vigore per le carni bovine, a quelle suine, caprine e al pollame. Ma soprattutto viene esteso a quei prodotti che possono trarre in inganno il consumatore, ad esempio un prosciutto commercializzato come italiano perché lavorato in Italia, le cui carni però provengono dall'Olanda. 3 gli anni a disposizione degli operatori economici per adeguarsi alle nuove norme, 5 nel caso invece delle indicazioni nutrizionali. 35 persone arrestate ieri dalla polizia italiana facevano parte di un'organizzazione transnazionale dedita al traffico di migranti. Da 4 a 20 mila euro. A tanto ammontava, secondo gli investigatori delle procure antimafia di Lecce e Bologna, il prezzo di viaggio che i criminali, in maggioranza afghani, pakistani e indiani, facevano pagare ai migranti per arrivare in Europa. Oggi in 35 sono stati arrestati. A spiegare come erano organizzati, il capo della squadra mobile di Lecce, Michele Avvenante. Venivano radunati nelle città dell'Afghanistan e della Turchia e lì con mezzi messi a disposizione dell'organizzazione, auto, pulmini, pullman e quant'altro, venivano fatti arrivare o in Turchia o in Grecia. In Turchia attraverso delle imbarcazioni, grosse imbarcazioni, venivano condotte sulle coste italiane, soprattutto in Calabria, mentre dalla Grecia con i gommoni e venivano fatti sbarcare ovviamente sulle coste del Salento. Una volta sbarcati in Italia, i migranti venivano condotti dall'organizzazione in altri paesi europei, tra cui Francia, Spagna e Portogallo. L'indagine era partita nell'agosto del 2010, dopo alcuni sbarchi e l'arresto in flagranza degli scafisti sulle coste del Salento. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Luce e gas. In tutta Europa è l'Italia che paga di più. Luce e gas nel nostro paese costano di più che nel resto dell'Unione Europea e ciò vale sia per le imprese che per le famiglie, anche se per queste ultime il divario si sta riducendo. A dirlo è l'Autorità per l'Energia e il Gas nella prima relazione targata Guido Bortoni al Parlamento. Nel secondo semestre 2010 le imprese italiane hanno pagato prezzi dell'energia elettrica superiori alla media europea per tutte le classi di consumo. Analoga situazione per il gas. Per le aziende la bolletta è più cara del 26%, per le famiglie del 12%. Tra gli obiettivi che l'Autorità per l'Energia e il Gas intende perseguire c'era l'impegno per bollette più semplici e chiare al consumatore. Ma il presidente dell'Autorità Bortoni ha anche lanciato un monito. Senza infrastrutture l'Italia sarà condannata a diventare una provincia del gas e non un paese snodo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Programmi televisivi e radiofonici provenienti da Germania, Portogallo, Belgio, Irlanda, Francia, da diversi altri paesi d'Europa e del mondo concorreranno a settembre a Pri Italia 2011. Più di 300 audiovisivi in concorso per 90 emittenti TV e radio pubbliche e private da tutto il mondo. Sono i numeri del Pri Italia, il Festival Internazionale della Radiotelevisione giunto alla 63esima edizione. La location del premio, che si svolgerà dal 18 al 23 settembre a Torino, non è casuale. Da 3 anni, infatti, il prestigioso concorso torna nel capoluogo piemontese in cui è nato nel 1948 e in cui quest'anno presenta una programmazione speciale per il 150esimo. Giovanna Milella, giornalista RAI e segretario generale del premio. Il Pri Italia ha accompagnato l'Unità d'Italia quasi per metà del suo cammino e dedicherà il 150esimo una giornata intera di proiezioni sui padri del Risorgimento e anche sui grandi poeti italiani. Tra le novità del 2011 l'adesione del canale musicale Classica Italia e uno sguardo ai nuovi media. Il premio speciale di quest'anno va infatti ai giornali e alle agenzie di stampa che presentano la migliore offerta multimediale sulla rete. Jacopo Matano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In chiusura lo sport con il Tour de France. Altro che i giganti della strada, sembrano dei birilli in caduta libera. Se non fosse che siamo al Tour e non in guerra, dovremmo davvero fare il conto dei caduti. E ieri di shoot, di cadute, ce ne sono state davvero tante. Per terra l'olandese Gesink, uno dei grandi favoriti di questo Tour. Per terra lo sloveno Brajkovic, costretto al ritiro. Per terra per ben 2 volte, il grande favorito alla vittoria finale, Alberto Contador, che non vede l'ora di arrivare a Lourdes per farsi benedire. In precedenza a terra ci sono finiti Wiggins e il campione di Francia Chavanel. Poi è stata la volta del belga Tom Bonen, che arriva al traguardo dopo 13 minuti. A 20 km dal traguardo anche Velasco finisce gambe per aria. Se queste finiscono a terra per disattenzione, lo stesso non si può certo dire per il campione di Danimarca, Nicky Sørensen, che viene letteralmente disarcenato dalla bicicletta da una moto che cerca di risalire il gruppo. La vittoria è andata al britannico Mark Cavendish, che ha vinto la sua 16ª tappa al Tour de France. Petacchi è stato frenato da una foratura all'ultimo chilometro. Sarà per la prossima volta. Piero Augusto Stagli, Radio 24, Sole 24 Ore, Cap Fred.